Pensiamo cristiani di buon cuore, la passione di nostro Signore, come son croce senza pari male, per scattare a noi le peccatori. E può San Pietro si negare, però ci dà per tutto dell'errore. Caro Maestro, venga a pregare, vi prego allora di Dio, mi perdoni. Tocca l'uomo si perdonare e di lì porti l'uomo patroni. Divinamente incide si li chiami. Pietro tu paradiso la preciosa. Divinamente incide si li chiami.